attenzione, canale 10, canale 10, K. Chi è che fa casino? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio? Attenzione, binario 10. Attenzione, canale 10, cambio. Avanti, chi è? Attenzione, canale 10. Hola. Hola. Avanti. Chi è su 10, avanti. Vabbè, ciccio, butta giù la pasta. Ora, attenzione, binario 10, cambio. Pugliano, non è passato ancora. Ciao, Tore. Non so come mi senti, sono in macchina. Lontano ti sento. No, io già ti sento bene, dai. Forse perché sono in mezzo al palazzo. Apparissimo, andiamo via, andiamo. Come mai sei in macchina, hai fatto un giro? No, a dirtela tutta, sono andato in macchina a ritirarmi i soldi. Ti ha dato il gennaio? Sì, agli sgoccioli siamo. Sì, sono a lunedì. E allora? No, è per farmi un po' di spesa, dai, ce l'avevo qualche cosa, ma per non avere soldi contanti. Vabbè, meglio averli in tasca i contanti per pagare con la cassa. Sono andato a fare l'ISEE adesso. Quando è che stai andando lì? Fatto per anno. Me l'ha fatto, mi ha fatto pagare 10 euro. Certo. Vabbè, no, qualche altro non lo conosci, glielo fa gratis. Ma ha detto per la carta che consumano, se gli volevo dare qualche cosa, perché dice la carta la paghiamo noi, almeno per il materiale, dai. Patronato, sì, vivono da quello. Vabbè, una mano gliela posso dare, non è che... Mi fanno tutto loro, mi fanno 7,30 e mi fanno pagare di meno, perché mi fanno la tariffa per pensionati. Oh, no. Tre ore già a me non ripudia nessuno, boh. Adesso non ti sento già. Non mi senti? Sicuramente sei tappato dai palazzi. Vabbè, magari tu sei in posizione, io sono tutta l'altra parte della città, capito? Sono tutta l'altra parte della città. Non so come mi stai ascoltando adesso. Mi libero un po' dai palazzi. Adesso ti sento bene, ti sento benissimo. Aspetta che faccio entrare... Chi è che voleva entrare? Io. Buonasera Gianni, salutoni, mi sentito? Sì, no, 995 qua. Cava, ciao Antonio, mi sentito anche a te, dai. Zona Serra Secca, a parte mia. Bene, mi senti in quella zona? Di Russo, Antu. Antu. Cazzo. Chi è avanti? Ciao Antu, buonasera. Sono Gavino, Antu. Come... Dammi un controllo, come mi occupi, Antu? Benissimo, ti sento bene. È buona la radio? Sì, anche segnale 925 Radio 5, in questo smitter digitale. Ok. Dai. Sto utilizzando un vecchio CD a quarti, un CD dai, per, da base, come può essere un Saturneco, e una Inuit CB 294 con un microfono da tavolo sempre vintage della tua. Questo è quanto. Vai di nuovo Antonio, la buonasera a chi c'è in ruota, scusate il disturbo, mi serviva solo capire un po' com'era l'emissione. Vai Antonio di nuovo. Sì, no, ti sento abbastanza bene, penso anche tu, dai. abbastanza bene, K. Ok, avanti Gianni. Ehi, dai, ciao Calvino, non so se mi ascolti che sono in macchina, sono a Serra Secca, dai, dai. Non so come mi stai ascoltando, capi? Io ti ascolto al centro. Sì, già che ti ascolto. Ti ascolto S5, S6, Ti ascolto la radio è buona, io ti ascolto perfettamente già. Tu mi compiti? A voglia, ti ascolto anche bene. L'Innoit erano degli apparecchi. Ce l'aveva, sai chi l'Innoit? Bruno, quello che fa praticamente un mista. Se ce l'hai presente? Sì. E dai, questo qua me l'ha fatto avere un fratello, va bene. E sì, già, dai, l'ho rimesso un po' in senso. Gli ha dato una bella un bel aiutino, gli ha dato lui ieri, poi oggi l'ho un po', dai, ricontrollato. E va bene così, va bene così. Vai di nuovo Gianni e fai girare. No, la radio è bella, capi, non so con che microfono lo stai usando, ma la radio è molto bella, dai, dai. Avanti Tore, avanti Tore per Gavino di Porto Torres. Sì, ok, ciao Gavi, buonasera. E Antonio anche, ti mangio già rodato da Anzura. Infatti la radio è buona, benissimo, bella, il segnale è 9 da me. Sì, anche tu qua 9, quindi diciamo che un controllo incrociato risulta, anche tu qua sei 9 da parte mia. E va bene, va bene. Gianni, sto utilizzando un microfono, lo stesso microfono degli anni 60, un TOA. È un microfono TOA, è simile a, diciamo, alla capsula tipo quella delle MC60, però è un microfono dinamico e non è un amplificato. E sto dando il PTT col microfono palmare suo. In pratica ho eliminato la capsula sua e gli ho collegato solo questo qua, perché questo microfono che sto utilizzando non ha PTT, quindi ho utilizzato il suo anche per via della, che ci vuole il ponte della ricezione, capito? Quindi ho solo sostituito la capsula, ho messo questo, diciamo, questo il piedistallo con il suo microfonino. E va bene, va bene. Antonio, di nuovo per te, vai. Gabi, sarà precompreso però, perché il microfono sembra amplificato. Usando il microfono amplificato, e te l'avrei detto già, te l'avrei detto, senza, lo sai che io non ho problemi a dir nulla. No, sto utilizzando un microfono, è un dinamico, e si chiama TOA, aspetta te lo dico, un TOA DM500, è un TOA DM500, se lo vuoi guardare in internet, si chiama TOA DM500, è un vintage anni 60, 63, 64, non di più, e l'ho abbinata a questa radio qua. E quindi è così, vai di nuovo Gianni. Perfetto abbinamento, complimenti. Ma deve essere buona la capsula, capi? Perché sembra amplificata la radio. Deve essere buona la capsula, tipo quella del Tokai, che non era amplificata, però era precompressa e cazzo usciva una bomba. Capa, scusate se io ho tardato, stavo andando a controllare Gabriele, capa. E io bene ti arrivo con le coordinate, capi? 9 più 30, sì, Antu. Andavè. Sì, 9 più 30 pieni, vai Tore. Sì, infatti. A me la canina va, lui glielo devo smettere. Acquisisci la capacità. Ce lo teniamo così, ce lo teniamo. Vabbè Gianni, dove sei arrivato adesso? No, mi sono fermato per parlare, dai, perché se ti trovano parlando col microfono è come se ti trovassero col cellulare parlando, capito? Ascolta Gianni. Dimmi a tu. Dove sei, in piazza delle Segne? Sì, adesso sì. Com'è il segnale? Buono è quella zona? Fondo scarso. Ascolta, mi spostate da qua che mi state disturbando la televisione, che sto guardando Maria De Filippi, invece va da voi. Ok, bianco un attimo, va a vedere il bambino cosa è combinente. Oh, vicino di casa, a Pavì. Cazzo, sei il baracchino, so, che cazzo ti vedo sul canale 5, sto guardando Maria De Filippi, cazzo va da te invece, in diretta. Sì, ma un po' di contegno. Ma vabbè, stanno parlando con me tu. Hai compreso? Già vi è fatta! Tutti comunque, è bello! Beh, sai così. Avanti Gabi, per il vicino di casa, Emanuele. Emanuele, io non riesco a copiarlo, non riesco proprio a copiarlo. Ho messo la grafina, ho messo la verticale qua, ma non riesco a tirarlo proprio fuori. Quindi, vabbè, no, niente, niente. Querix da parte mia, grazie per i controlli, Tore, grazie Gianni, grazie Antonio e buona... Semmai ci sentiamo dopo, che mi finisco di chiudere qualcosina qua. Di nuovo, grazie ancora, vai Tore. Sì, ok, ci sentiamo Gabi, alle prossime. Siamo io. Sì, Gianni, Emanuele, lo senti? Lo sento basso però, dai, sto camminando adesso. Emanuele, avanti. Sì, mi senti già, io già ti sento, dai. Sì, ti sento, dai, sto camminando ma già ti sento, dai, quel rema ce n'è poco, quindi ti ascolto bene, dai, dai. Anche se sei appena basso, capisco quello che dici. Nella sottoletta già mi sento un po' tutti, dai. Ma ragione, ci sono parolito. Ma che ti dice che è già gasematica, no? Guarda, se la metto sul tetto vi faccio schiattare, già lo sai, Andiamo bene, andiamo bene. Ci andiamo bene. Vabbè, Emanuele, tutto bene, sì. Sì, tutto a posto, a casa. Sto prendendo le cose della Nastri perché lì abbiamo finito. Quindi, adesso dove sei? Adesso da nessuna parte, sto prendendo la Nastri. Adesso da nessuna parte. Mi devono far sapere per un altro posto e vediamo un po'. Vabbè. Quindi ti riposi per un po' di giorni? Sì, è già da dicembre che sono fermo. Ma no, mi sono già riposato per adesso. Se tramite amici vediamo un po' cosa ne c'è fuori, qualcosa uscirà. Niente, ci lo si fanno operare in tutti i cantieri, in tutti gli ordini. Stanno cercando operai. Tanto vicino a Obi aveva un'officina che ha bisogno di 20 operai. 10 qualificati e 10 senza essere qualificati. Ma dove? Vicino a Obi, l'hanno detto alla radio, no alla radio, al televisore stamattina, a pranzo anzi. Lo stavo ascoltando, e c'è questa officina che è a Obi, sta cercando 10 qualificati operai e 10 senza essere qualificati. Ma quello di come a prenderli dal posto, da qui non conviene. Tu paga burba e paga lì. E vabbè, che cazzo di casa per gli agenti. Ma la casa in ghibà ti vecchi? Eh? Ma la casa in ghibà è affitto. Lo so, gli affitti già, gli affitti sono cari a volte. Sono ben cari. Allora, cosa vuoi che ti dica? Chi sa gentile? Poi ce n'è uno vicino a Castelsardo, lo stesso, un'officina che sta cercando 7-8 operai, idraulici sta cercando e altri operai. Vabbè, io di questi lavori non ne posso fare, perché non ne posso fare più. Perché se ero stato sano, con la schiena, me ne andavo attorno a fare il mio lavoro e basta. Invece con la schiena mi ha fregato. lo so. Ciao, lavori leggeri. Speriamo che iniziano. E adesso è uscita la stagione, adesso metteranno che sono cercando come lavorare, che pulire i giardini. Non so, cioè, che ti conviene pulire i giardini. No, ma neanche quello posso fare, perché cazzo devi avere tutta la ricca sul gannao attaccato con il suo spugliatore. Dice è pesante, quello lì è pesante. Già li ho fatti, però adesso non riuscirei più. Sì, lo farò mezz'ora, lo posso usare, un'ora, non di più, da voi lo risente. Vabbè già, dove sei arrivato? Sono via Marras adesso. Sei a casa tua? No, via Marras, prima del Ponte Nuovo. Ah, sì, sì, via Marras, sì. Ma non è sole. Vai a prendere le pietre. Se sei brutto ti tirano le pietre. Oh già, va a prendere quelle pietre. No, adesso non ci devo passare, Emanuele. Sto passando da un'altra parte, devo scendere dalla parte del monte di su, la strada nuova. Sì, dal ponte stai passando. Ma poi devo passare la strada nuova che devo andare a comprare roba. Ah, vabbè, fa niente. Vai, va, cuomane. Sì, Ciccio, o Lu. Io sento la famiglia doccia, dimmi. Ascolta a me, quando è che mi controlli questo PC che quando metto, adesso non lo so come mai, fa così, quando metti su YouTube a ascoltare la musica, sta sempre caricando, va a tratti, va la musica. Ma quello l'SSD c'ha, no? No, è normale, però mi fa questo problema qua, sta sempre caricando. Allora, vorrebbe reinstallare il sistema operativo, ti consiglio di mettergli l'SSD, perché quelli meccanici non servono più a un cazzo, li hanno fatti apposta per quel motivo lì. L'hard disk meccanico che fa quel problema lì, capito? Se tu gli metti l'SSD, vedrai che migliora la giorno alla notte. Che cazzo non me l'ha mai fatto lui quando me li ha fatti? Non me l'ha mai fatto queste cose. Vabbè, ma purtroppo l'SSD è meccanico e col tempo va a farsi benedire. Io sono questo qua, il computer, me li ho venduti, ma tutti con l'SSD. Adesso quando prendo quello lì, lo ordiniamo e me lo installi. Capito tu? Vai, pari tu. Andranno a farsi la doccia da Bittu. Sì, Emanuele, dai, vado a farmi la doccia, che cazzo pensava a fuori che stavo facendo, cioè, stavo controllando un lavoro, facevo manichi gotti, facevo congelato. Vado a farmi la doccia, poi la cada dopo. Ascolta a me, ma non si può trovare usato questo SSD? Ma cosa cazzo c'ha più usato? Ma parli per me di zio. Vabbè, dai, quando è... lo mettiamo, dai. Vai, to. Sì. Perché c'hai il computer lento, ecco perché non ti funziona adesso. E ti sto dicendo di mettere l'SSD a farlo più veloce. Già lo so l'SSD qual è, quello, perché questo che c'ho è quello meccanico. Invece l'SSD è un'altra cosa, te lo fa avviare molto più veloce, un'altra cosa, quello sì. Però non me l'ha mai fatto. Cupizia! È entrato a farsi la doccia! Ah, così è. E adesso come mi ascoltate? Adesso sto scendendo dal ponte nuovo. A bomba, ti ascoltiamo già a bomba. Vai, vai, drogato, vai, cuocomane. Le 6:30, raga, non vedo nessuno. Ma se ce l'avevo io in macchina? Io ho chiamato, sentivo un bip lontano, ma non rispondeva. Non so. Ma com'è, non me ne voglio in macchina, così a me non mi dà. Non mi dà il bacio di un'onda. Vabbè, dai, comunque ho visto che ancora funziona questo apparecchio, dai. Capo. Oh, No, sono un po' in macchina io, non so che indeponirlo. Davvero, loco, ma cazzo callo. No, è una pagina carino nella macchina mia. È tutto sarrato. Come è tutto sarrato? Anche questa a passare i fili, non porta tra la botica perché non sono riuscito a trovare un buco per passarli. L'ha praticamente dovuto togliere dove ci sono i fili che passano, ha fatto passare lì in mezzo, ma ha avuto mattana anche lui a farlo, che fa impianti a livello, dai. Infatti io ho il capo grosso qua. Io me l'ho fatto io, non ho anche buttato la botteghino. Già, mi ho fatto tutto io. Ok, dai, ce la risentiamo, vai, siamo il fusibile quello grosso, dai. Dai, ce la risentiamo, dai, che io vado a fare delle cose col bambino, ce la sentiamo dopo, tengo acceso. Capantonio, va bene, dai, ciao, ci sentiamo. Vabbè, ma Budi che è professionale, c'ha, fa gli impianti per gare, non ti dico altro. Non ti metto sopra. Li so fare anche io gli impianti, ma nella macchina nuova non mi mettevo a toccare, qua c'è un centraline, ci sono cose che non puoi toccare. Me l'ho fatto fare una persona competente per quello, per non fare danni. Ma cosa? Ok, dai, ti andiamo a salutare, sentiamo dopo. Cava, ciao Antonio, dai, buone faccende, dai, avanti Tore. Infatti, io adesso non ne posso toccare, non me ne bongo, e non me ne affronto nulla. Mettitelo in macchina che così facciamo macchina 1, macchina 2, macchina 3. Non devo andare a nessun posto di coso con la macchina, che sono giù in casa. Vabbè, anche io già non esco molto, dai. Comunque quando esco lo attacco sempre, almeno che non debba fare un tragitto lungo, se devo fare un tragitto corto non ne metto, ma se devo fare qualche tragitto lungo già lo attacco. Sì, va bene. Cioè il premierato, no, se devo mettere questo Inter che... Perché le opposizioni stanno... L'8-9-9. Sostriderebbe questo quindi mi attacco il microfono alle mani. Scappa, no, io lo metto sulla gamba il microfono e mi sentite lo stesso. Non ne ho bisogno di metterlo in mano. Sulla gamba e premo il pulsante e mi sentite ugualmente. Se no ci metto quello a peccare al coso. Alla leva del cambio. Dopo. Avanti chi è rimasto? No, solo noi ci siamo. Antonio se n'è andato, Gavino non c'è più. Mi sa che siamo solo noi. Ping e pong, governo. Siamo ping e pong. E chi vince? La pallina già la troviamo. Quindi un po' da te, un po' da me. Alla nazione, andiamo ad avanti. Ehi, a tutto. Mi sa che adesso me ne rientro a casa e parlo da lì. Perché qua sta venendo la nebbia, ve la iaccia. Sono venuto a casa io qua. Stava iniziando a entrare la nebbia. Infatti adesso scendo nella strada nuova del monte e rientro a casa, dai. Già ci sentiamo da lì poi. Lascia qua. Sì, siamo in questo canale, dai. Tu resta in ascolto, tanto devo togliere solo l'antenna e l'apparato e poi riprendo da casa. Aspetta, Samira. Claudio. Oh, Gabi. Beccala, allora. Ma quale che dicevo? Ehi, e allora? Tu mi sa se... Ehi, com'è? Com'è? Se no, radio buona, buona. Con quel microfono ti ho mandato, dai. Oggi il microfono c'è normale, adesso quanto c'è bene. Cosa, Trump? Metti il microfono? Per mettere il microfono normale, che c'è un babbone. Ho dovuto qua togliere, sto facendo l'altro modo, questo qua. Niente. Ma perché è bassa con questo? C'è molto tonalità basse, mancano da tutti. Mancano gli acuti, un po' di base ci sono, vero? Guarda se mi allontano a vedere. Guarda un po'. Cerchiamo di stare meglio. Sì, se rimani troppo vicino c'è un po' di bassi. Sì, ehi. Sì, adesso ma sono a 20 centimetri, sono a 20 centimetri dal microfono. Non so se si abbassa la radio, però. No, è perfetta, è perfetta. Sì, ti ho giurito. È un bel pezzo, veramente un bel pezzo. Ottimo per la truppa, bellissima. Sì. Allora come funziona? Allora dice che non andrà via o non è con la cabo? Qua non sta più uscendo, Non sta uscendo? Adesso sì, poco fa ti ha mollato un pochino. Perché non ho schiacciato il microfono, cioè, a una certa età diventi un po' rincoglionito. Me lo fa anche la voce hanno abbiuto, lui dice non stai uscendo, ah, vabbè non riprendi, non ci c'è un dato, quindi non è esce, non è a pensiero. Va bene, dai, sono entrato, ti ho sentito e sono entrato a fatta la sentita. Questo è il quanto. La sto aiutando comunque, sono con ho messo il BV 131 là. Beh, non sono con i 5 watt. Da 5 watt tondi. Va bene, sono contento. Ho visto la palina e tutto. Dopo di nuovo, insomma, lo usi, lo ce l'hai, ma è una cosa che funziona, no? Ma sei tu buono. E allora andiamo da mio con la capucente. Grazie, di memoria. Va bene. Dai, capi, piena libertà allora. Io mi ho messo il riscaldamento, sono già 7:10, non ho acceso ancora, perché non ce n'è freddo, la verità. Allora lo accendimelo, che poi c'è freddo più tardi. Allora, accendo il riscaldamento, a voi. E boh, se no che ci vede anche l'uno, se no si rappresenta il pressione, cambio. Yes. S9 sì, anche tu, già è giusto il tuo switcher, maledizione, già è giusto, anche tu 9, 9, 5 fai modulati, la radio è comprensibilissima, no, è buona, andava bene, continua a fare quella roba, dai, ciao qua, sentiamo dopo, magari. Buona serata. Ciao fratello mio, un abbraccio grande, ci sentiamo più tardi se coincidiamo. Ciao. Claudio, accendi anche il mio riscaldamento. È la battaglia nel varia, anche in pari baremo un pellet. Cazzo, va per arrivare di pellet. E intanto è qualche bocca, se mi vogliono vedere, un filosio, non lo voglio lasciare. Penso che ancora a metà marzo, poi giù lo basta, ma sono più, ci obbligo ai luci. Ci sentiamo dopo, vai, che vado a accendere il scanamento a mia moglie. Sì, ci sentiamo. Ciao, Tom. Ciao, radio. Ciao, a dopo. Ehi, sono qua. Qua. Dammi 5 secondi e vado in bagno, sto tornando. Fatti più già sotto. Eccomi qua. Il baratto te ne sei. Sì, è cambiato la coriolizza. Guarda te, i leggiambati. Guardi erano. Erano i confittati. Chi se ne dovevi cagare? Vabbè, dai, quando c'è vu. Perché ero in giro, ma non ho trovato un punto d'atterraggio, là. La sangue non è auto. Oh, perché ero in banca, quindi... La banca l'ha chiusa, no? Si è alzato il banco, va. E dopo puoi andare, a che ora? Sono al banco, ma dove? E infatti. Ma a me già mi va bene lo stesso. Sì, non vedo voce io, prendo e pago con la carta. No, ma io preferisco avere lì. Oh, no, io pago con la carta. Tanto la pago un bello, non chissà. No, io praticamente la carta la uso, ma sono in casi che magari abbi cucchi liquidi, allora uso la carta, capito? No, io se mi lascio i liquidi me ne tengo conto. Che magari, vabbè. No, beh, viene meglio a dividere le spese, capito? Tanto per la luce, tanto per questo, tanto per l'altro, mi viene meglio dividerle. Beh sì, è meglio così. Meglio dividere ogni tanto. Io ogni volta mia me la divido verso a fine aprile. Chi è che vuole entrare? Oh già, scusate. Oh già, cosa stai usando in macchina? Il 48? No. Stavo usando il Magnum l'S980. È bello, bella, la radio era bella, Magnum 980, non lo fanno più, capito, quello lì, l'avevo pagato 500 euro, me lo ricordo bene. Tra spese di spedizione e tutto mi è venuto sulle 520. Quello mi sembra che ci va con 100 watt in banda, giusto? Mi sa che da 30 watt in AM, sì, in banda da sui 100 watt, sì. Quello col dissipatore grosso, dai. È quello col dissipatore grosso dietro, se non sbaglio. Sì. Va bene, bella, era bella, sono entrata a dirti questo, era bella la radio. L'antenna è un'antenna che... Allora, per caso l'ho trovata, questa antenna l'ho presa dall'Olanda. Me la ricordo, quella... Sì, avevi preso quell'antenna... Quella esce bene l'antenna, secondo me è meglio della 2001 pure, perché è più leggera, magari tiene meno watt, ma alla fine, cioè, quando usi un amplificatorino in macchina va bene. Quell'antenna lì mi sembra che era 300 o 500 watt DP, ma va bene perché è leggera già, non sta in chivi ad avere paura che si stacca la base magnetica, no, già va bene. No, è un'antenna performante, dai, va molto bene. Tu pensa che quando io ho parlato con te ero alla Cariplo di Serrasecca, non ti dico altro. E mi sentivo. Sì. No, ma infatti ho detto, sono entrato, ho detto porca miseria, era la radio, era il segnale era IS6, IS7, però la radio c'era tutta, la radio era bella. Va bene, no, sono entrato solo per quello, per dirti questa roba qua. Buon, sono in quel Rix qua, sono all'ascolto già, sto facendo una cosa. Ciao, buona serata. Vai Gian. Grazie per essere entrato, e per avermi detto questa cosa, ma io ho anche il parlascolta con la radio, l'ho regolata col minimo di eco perché potrei farlo andare con la coda, tutto quanto dalla fabbrica, non è modificato dopo, è fatto tutto dalla fabbrica. E l'ho regolata appena di eco, ma poco, al minimo. Sì, già, è bello. E va bene, io sto provando, dai, sto vintage. Funziona alla grande, alla perfezione. Va solo la M, però, guarda bene, è buono, situazione base. Ci piace, anzi, mi piace. Di nuovo, buona serata, vai Gianni. E noi ti facevamo dei bei apparecchi, uscivano tutti bene di radio. Io mi ricordo Bruno, cazzo, quando mi chiamava mi diceva, allora ti pongo di giù, di così dormi da me. Sì, diciamo che qua in mezzo è tutta una trocola. Già si distingue perché c'è tutte radio, diciamo, diverse, si distingue, già, però fa la sua bella figura, ci voleva, non ce l'avevo vita chiusa, non ce l'avevo. Va bene, vai di nuovo Gianni, buona serata. Io qua c'ho il Ruiz vintage, ma se io dovessi mettere in macchina questo che c'ho qua, questo Cobra che esce con 100 watt, chissà come esce. Ma quello in banda laterale, quello, tu vedrai che se usi la USB uniforme sarà bravo, in macchina ti diverti, la M sì, però FM e banda laterale sono sono assurde, poi la radio non scalda, dai. Cioè con la banda laterale non scalda, la FM cade più di la M. Va bene, provalo in banda a vedere, a fare qualche chiamata, anche quando senti più propagazione, vedrai che ti vive più con quella radio. No, quando ero più ragazzo andavo lì dove c'è la chiesa di Bonai, di Bonai lontana, e mi mettevo, però prima c'era lo spazio per parcheggiarti lì davanti alla chiesa, ci mettevamo lì, venivano da Porto Torres, da Sassari, tutti quanti in fila, quasi americani, in banda laterale, e più di una volta. Sì, già bello, già. È bello, ma ormai non si usa più, e vabbè, vorrà dire che le usiamo, che si usano da casa, ma io già mi diverto in banda laterale, vado anche su, diciamo, fuori dai canali omologati, faccio qualche chiamata, ho fatto anche qualche collegamento un po' importante. Vabbè, sempre aiutato, sempre lo sai, e quindi no, a me non, io non è che sto di lì a questa cosa, io prendo e faccio una chiamata e prendo l'appunto e faccio due o tre chiamate, cinque chiamate, quello che è, poi quando mi tuffo e chiudo la trasmissione e mi diverto così. E va bene. Tutto alla prossima, rimango in ascolto che ci ho stato attaccato. Ciao, Gabi, avanti tu. Bella. Ma sono qua. Darmi con tutti, mi piace. Purtroppo è così. No, io già ce l'ho. Lunga. Un metro con l'antenna che ho. Con la calamita. Lui con i suoi compagni. Un poco, anche dimmelo un poco, però me lo devo attaccare all'accendisigari. Ma è attacchi lì, se non è molto assorbimento. Ma però capisci, se ci si è nascosto. Abbiamo messo, siamo andati al quadrato e abbiamo messo la Turbo 2001 con questa antenna che ho adesso. E l'abbiamo prima provato con il Turbo 2001, abbiamo chiesto il controllo, poi abbiamo attaccato questa antenna, arrivava a due segnali più forte. Sì, ma ci credo, la Turbo 2001 è un'antenna pesante già, poi magari è più, come ti posso dire, è più sensibile, più guadagno di P, non lo so, però va bene, perché se, ti ripeto, a me come segnale mi arriva via S6 e S7 e come radio era buona, una volta che arrivi in radio vuol dire che l'antenna sta andando, perché già S6, S7, S8, io considero che sono anche nella piana di sorso qua in periferia e sono in un buco ed eri molto, diciamo, molto nascosto nei confronti, quindi l'antenna stava spingendo. Sì. Infatti l'avevo presa perché avevo fatto ce l'aveva San Vito questa antenna qua. E avevo chiesto di fare questa prova qua. Quando abbiamo fatto la prova, l'ho subito ordinata, mi è piaciuta subito. Abbiamo chiesto un controllo a Luca, che è una persona che mi posso fidare, quindi mi ha dato due segnali in più con questa antenna qua della Tubo. Mi ha detto, io mi devo tenere un'antenna Bisanti. Una volta il mio Umberto mi sono dimenticato che avevo l'antenna grande, vado sotto gli alberi dove c'è il modello, ragazzi, me l'ha sfrazzato, dove sta capo. Fa danno, perché poi la 2001, quando anche inizia a prendere, camminare 90-100, prende un bel di coso e un bel di vento e ti piega la cappotta e danni alla macchina, poi per un'antenna non conviene averli, conviene un'antenna leggera come quella che hai preso e andare così, no, con l'antenna va bene, perché poi non è neanche tanto vistosa, da 2001 porta visita, però non lo posso controllare. però è stato bene, continua a fare sta roba, sono all'ascolto già, vai. Sì, Tonichetto, cosa ci racconti di bello? Dai, lo piaciamo questo baracchino in macchina. Qualche giorno ce lo metto. No, devo trovare un'antenna piccola come quella che c'hai tu. Perché se ci metto quella da un metro, no, me la sciocchetteggio da una base all'altra con gli alberi. La mia è 1,60 m. E invece la tua vedere era 2 metri, questo è 1,60 m, non è cortissima però va bene come antenna su strada, io sono andato al Ghero, mi sentivano, sono arrivato sino all'aeroporto, ho parlato dall'aeroporto con Sassari, cioè è una bella antenna, non mi posso lamentare. No, è meglio la mia, che è da un metro, quindi, la mia andava via, che era 50-60 centimetri a due. La mia è più bella. No, è alta 1,60 m, però è performante come antenna, tutte le parti mi sentono. Infatti poco fa quando mi detto che mi sentivo in basso mi sembrava strano, ma era perché ero attorno al palazzo dove c'è la carico, ce l'ha presente. C'erano tutti i palazzi attorno. Qualche giorno me la metto. Qualche giorno me la metto sulla capotta. Sulla capolina un peso di bambino sotto. Fanno graffio a mira. No, io non la graffio, vai la macchina. Io praticamente l'antenna non la faccio strisciare, la tiro direttamente, la tiro e non si graffia la macchina. Se tu la fai strisciare sì, ma bene, l'hanno il gommino, che la mia c'è il gommino sotto, non c'è bisogno. La mia è più bella. Anche la mia c'ha il gommino sotto, c'ha la gomma. Però per toccare la gomma con il coso devo mettergli un pezzo di bambino. Quest'anno. E così ancora, la mia è più bella. Sono la frutta nera io. Quella ce l'ho anch'io giù in magazzino. Quella nera. Quella proprio bella proprio. Me l'ha regalata Claudio. E da allora non l'ho più tolta perché è molto silenziosa come antenna. Ma l'attacco ce l'avevi già? Sì, abbiamo tolto una e messo l'altra. È stazionario? Zero. Vabbè. Andiamo. No, quello dice è quella che usava Claudio per andare fuori, che lo usava con un lineare grosso, si sentiva da lontano, da tutte le parti. La frusta nera, ce l'ho! Una ne ho dato a Franco, l'altro, e una mi è rimasta. Io la stavo cercando, la dico la verità, perché la mia macchina è nera, ci sta bene la frusta nera, capito? E non, a me non è lo stesso colore. La stavo cercando, poi ho trovato questa qua che praticamente c'è una parte nera, una parte trasparente dove si vede la carica. E poi sopra l'altra parte nera. Io c'ho tutto il pezzo di giù che è nero, più il piatto della calamita che è cromato, e poi l'antenna allo stilo che manco ci vedi. Becco. Avanti. Buonasera a tutti, saluti circolari. Marco da questa parte, ho disotterrato l'MB più 5 per vedere se è tutto a posto. L'ho spolverato appena, la batteria è sempre con la vecchia. Ditemi se va tutto bene, distanza a 30 cm e il tono è a 3. Ditemi se il tono va abbassato ulteriormente o va bene così. Per me è perfetto. Va benissimo. Ok, va bene, anche questo è salvo. Adesso lo posso staccare e rimettere nell'armadio. Avanti Gianni, dai, riprendete, io sto trafficando qua. Se vuoi un consiglio, togli le batterie quando li fermi così, perché poi si ossidano e ti fanno un casino nero dentro. Come togli le batterie? Ci ho pensato già, però allora io uso sempre o Energizer o Duracell. In questo caso Energizer dovrebbero essere abbastanza blindate. Cioè, che io ricordi, questo tipo di batteria non ha mai perso acido, a dispetto di quelle più economiche. Comunque la controllo sempre, la controllo, quindi vedo se è tutto pulito. Va bene, va bene. Però sempre con quelli da tavolo, vabbè, io ho poco spazio e per quello che lo uso poco. Però vedi, il PTT non è male, è che sono io legna verde. Riprendi, Tore. Sì, no, fate così, quelle Duracell non ho perso mai nulla. Io ce l'ho tutte e due con Duracell, non ne ho perso mai nulla. Una ce l'ho più di un anno dentro nel microfono, quindi a buia. Avanti già. A me è successo una volta che mi si era gonfiata e si stava per crepare. Era talmente gonfia che stava per creparsi. Però magari era difettosa la batteria, adesso non mi ricordo la batteria, era, mi pare Panasonic. Ma se vi erano dagli, si gonfiava ad esempio. Infatti non le ho mai messe. L'ho messo sempre dura, ce l'ho messo. Acido non ne ha perso, però era gonfia, capito? Ho fatto il tempo in tempo a Torre, l'ha pulito tutto quanto bene con lo spray per contatti, gli ho messo anche il CRC per pulirlo bene. Qui è andato bene, non è. Quello mi è successo nel Turner, nel Turner più 3. Chi è avanti? Tanto c'è il basso di radio, io dico sì. Tanto c'è il basso di radio. Ma cosa ne successo? Forse ha cambiato microfono. Ma essendo un chissantenna. Dove era basso? Non ne sentivo. Orgoglio ricoglionito, invece di mettere due ho messo uno, ho il commutatore. Infatti c'è senza antenna, lui si bruciava parecchio. Ma mi sono capitato subito, mi sono acceso le spie. Ti ho avvisato subito che rimasero le ricche. No, mi sono capitato io, ho detto cosa cazzo sta succedendo, perché c'è la spia che mi si stava accendendo. Beh, se non commuti, non giri giusto, è logico. E infatti quel commutatore io l'ho eliminato, qui c'è Romacco, non ne bagno, attacco rubiere direttamente e via. Ho già mi sono capitato subito, già sono uno stupido, no? Già, mi sono accorto subito che ho sbagliato la posizione. Ma nessuno ti sta dicendo che sei stupido, ma uno può anche non accorgersene. Vabbè, ok, dai, io vi saluto che devo portare giù il cane. Statevi bene, buon QSO e grazie per la compagnia stasera, dai. Ci sentiamo ragazzi, vado a portare giù a te, ok, si sta lamentando, vuole scendere. Via. Ok già. Ce la risentiamo. Ciao Gian, alla prossima, a risentirci. Vabbè ragazzi, io chiudo che mi devo ubriare i bastigli. Ci risentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao a tutti gli altri. Antonio, ciao Antonio, ciao gli ascoltatori. Oggi è andata poca gente, chissà perché. Ma vabbè, ci sentiamo, ciao. Ciao già, fallo montare quel cane, poveretto. Ciao Marco, io ci sono belli cani in calore e quindi vuole scendere prima, sta sempre fiaggando, mi tira da una parte all'altra, sembra che impazzisca, sente l'odore, capito? Allora si dice, come lo tu, io subito in calore. Ehi, lo so, infatti ieri stavo carellando, ho sentito che il cane ha tirato, poveretto, tu immagina una vita senza trombare, mamma mia, poveraccio, già lo credo che pignendi. Ciao anche a Torre Squalo. Ciao Marco, alle prossime. Ciao ciao. Ciao Marco, una cosa ci ha fatto una coccherina, però l'ho staccato in tempo perché la padrona si è messa a voce, no, che non posso tenere cuccioli e lavoro io. Ma infatti poi il problema è che se non sono della stessa razza, magari quindi non è una razza selezionata, magari cuccioli ibridi, detta così, non li vuole nessuno. Cioè bisognerebbe trovare una persona che ha lo stesso cane, stessa razza, che è interessata, mettendovi d'accordo anche a farci dei soldi, e se n'è una rogna, se sono cuccioli magari bassardini da ibridi, poi rischia che non li vuole nessuno, e se li deve caricare, vabbè, sarebbero cavoli poi della padrona, del padrone della femmina, non tuoi. Marco, ho trovato una sassa di era nera, una uguale identica a lui, solo che era nera. E mi sono fermato con la macchina, che l'ho chiamata, signora, signora, adesso si può assicurare. Scusi, ma è femmina? Sì, è femmina, perché? Perché ce l'ho uguale, ho detto, vorrei far fuori i cuccioli. No, ma la mia l'ho sterilizzata, ma la fannacco. Appunto, per non avere rogne, ma va bene, dai, buona serata a tutti, Antonio anche, ciao Antonio, dai, sentiamo, qua il microfono è collaudato e tutto va bene, sembra che non abbia scariche e quindi magari lo tengo un paio di giorni, poi lo conservo di nuovo, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao Marco, macchina fideleghizio che è un bombone, che funziona bene. E questi dineghizi palmati. Ecco un attimo. Ciao Giacomo, ci sentiamo. Mi era apparso ad aver sentito un break, tipo Santiago 3 o Santiago 4, appena udibile, avanti. Sì, buonasera, stazione Uranio qua dalla collinetta di Udine. Ci avrebbe un controllo di Santiago Radio. Allora, per chi ha parlato, allora il segnale è 4, però la modulazione è 1, cioè non è capibile. Ho capito solo Santiago in radio. E puoi fare niente per aumentare appena? Infatti non ho capito chi è nemmeno. Anto, tu lo copi. Avanti l'amico, rifà il passaggio. Adesso stazione Uranio da Osilo, avanti il cambio. Ah, Uranio, Francesco Uranio da Osilo, che non sentivo da parecchio. Allora, il segnale è 4, è molto basso, ma la radio ti posso dare 1, è capibile a tratti, appena capibile, ecco, rispetto al segnale che avevi una volta. Conta che io ho 4 watt, aspetta che miglioriamo. Ecco, guarda se mi copi meglio adesso e se puoi aumentare qualcosa. Ciao Uranio, Santiago 9, Radio 5, ciao caro amico. Ah, grazie al controllo. Non mi ricordo il tuo nominativo, la modulazione, se sono riconoscente, però non vorrei sbagliare il nominativo, capito? Comunque adesso che hai mancato un quarto di 9, una radio di 5 è praticamente, ok. Ciao Tony, io guarda, lo copio veramente Radio 1 e ti dirò che non l'avevo mai sentito così basso Uranio da Osilo, e lui arrivava almeno 7 di segnale, 6, proprio minimo 6, 7, 8, quando attaccava arrivava 8 e anche di più, e da te arriva 9, vuol dire che sei proprio aperto, vai Tonino, riprendi. Io sono, diciamo, zona alta, fuori Sassari, zona San Camillo, là, più o meno, quindi... E poi lì è zona aperta, io... Dunque, Osilo dovrebbe essere... coperta, mi pare sia coperta per me. Mi volevo chiedere, Francesco... quindi hai detto non è possibilità di aumentare, no? È la possibilità, però ma sapere che è un pochino complicato e non mi ricordo come tutti ho capito. Vogliamo stare anche a Repubblica, però non mi ricordo l'opzione, non so come qua. Va bene, però anche io sono un po' chiuso, perché sono proprio, diciamo, ma proprio fratello, un po' di stare nel cancello, sono proprio di cartello, qui per stare sono chiuso, chiuso abbastanza. La tua posizione, la mia, possiamo va bene, ok, Tonino, non sarei Tonino come sempre, sono io Uranio. Ehi, Tony, fai da ponte. Ti conservo anche in mi ricordo benissimo. Perfetto, non so come detto che arrivo lì con un buon segnale, se capite, evidentemente è una zona aperta per la via, è aperta. perfetto, è su, si è aperto ogni cosa. Perfetto, dai. Va benissimo. Ripeti, tu devi far girare, dai. Io a te come ti arrivo, Uranio? Tu mi arrivi Santiago Nove, quasi, venerdì 5. Ecco, sempre 4 watt in uscita, non ho altro, sono liscio liscio. E l'antenna anche un po' capottata, dai. Bene, veda. Comunque, niente particolare, ripeto. Perché ti ha fatto danno il vento? Sì, mi ha piegato l'antenna. Sembra una direttiva, va. È vero che stai giornale, non ne ho, va bene così, meglio così. Cazzo di fare, ecco, per giornata. E comunque vedi, arrivi 9, 9 con 4 watt, io per arrivare 9 ne ho 70, una settantina dai, massimo, è proprio per eccesso. Mi sembrava di aver sentito anche Eugenio, sei lui, però il segnale è più basso, Eugenio sei tu. Eugenio, come ti arrivo lì a Papatacco? Torino, questa parte, sempre giornato per me Papatacco, Torino, Torino, ciao, ciao, buonanotte, onda. Sono sempre la parte negativa verso Porto Torce, è aperto per Alghero, e vai, pazienza, dai, quando cambierò casa allora mi sentirai meglio. Ehi, oggi, penso che già mi senti tu a me da Palazzo Dolce, sì. Eugenio! Ehi, si è sentato Antonio.